Nel negozio. Ah, questo è il negozio di Giovanni. Ciao, Giovanni, come stai? Lorenzo, che piacere! Io sto bene, e tu? Bene, grazie. Complimenti! La tua fidanzata è bellissima! No. Questa è la signorina Sarah Jenkins, una collega inglese. Molto piacere. Piacere! Allora, signorina, le piace Firenze? Oh, sì, mi piace molto! Complimenti! Il suo italiano è perfetto! Not really. Sì. È bravissima. Senti, Giovanni, cerchiamo degli occhiali da sole per Sara. Qui abbiamo occhiali di marca bellissimi. Ecco, guardi, questi sono i più moderni. Le piacciono? Yes, can I try them on? Certo. C'è uno specchio? Sì, lo specchio è là. They're a bit too big for me. Sì, è vero. Sono troppo grandi per lei. Ecco, questi sono più piccoli. Let me see. Fiori, signore? Fiori per la signorina? No. Niente fiori. No, niente fiori, grazie. Oh, yes, these are nice. How much are they? Quanto costano? Vediamo. Questi vengono 130 euro. 130 euros. Oh, no. They're too expensive. Troppo cari? Ma le faccio uno sconto. Giovanni is offering a discount. Uno sconto. Uno sconto. How much? Per lei solo 100 euro. Perché è un'amica di Lorenzo. 100 euros. È un grosso sconto. Yeah, I suppose so. Well, I'll take them. Va bene. Benissimo. Con questi occhiali è ancora più bella. Oh, yes, of course. Can I pay with a credit card? Può pagare con carta di credito? Ma è meglio in contanti, con lo sconto. Cash would be better because of the discount. Okay, no problem. Here. Where's my bag? La borsa? Yes, I put it on the counter. It's disappeared. Oddio, il ragazzo dei fiori! And that's the end of Unit 4. Ciao!